Anche la tua Gwendalina si perde il campanaccio? Cercalo nel posto giusto. Lo trovi su mercatinousato.com. Gli oggetti più introvabili a portata di click. E Gwendalina belerà di gioia. Mercatino Franchising. Eco, logico, easy. Tra le onde del mattino, tra il sussurro e il destino, Simone Pizzi guida il cammino con occhi da matto, senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli di casa, benvenuti come tutti i venerdì mattina qua su runtimeradio.it con il grande Reset in compagnia mia, per passare tre quarti d'ora in compagnia, fare riflessioni e soprattutto raccontarvi anche delle storie che riguardano me, il mio pensiero, il mondo che mi circonda e a volte anche le cose un po' più grosse di noi, quelle che comunque in questo momento stanno determinando in parte la nostra esistenza e che magari non ci piacciono. E a tal proposito vi invito ad ascoltare la puntata di Radio Anziano di ieri, che si intitola Rigurgito Antifascista, che sarà lo spunto per la puntata della prossima settimana del Grande Reset, ma ve ne parlerò insomma a fine puntata. Poi come sempre sulla chat monodirezionale, sul canale broadcast di Telegram di Runtime Radio, che si può trovare facilmente scrivendo sul modulo di ricerca Runtime Radio, poi sarete ovviamente aggiornati e informati su quella che è ovviamente la richiesta che farò a tutti quanti se vorrete ovviamente partecipare alla puntata della prossima settimana. Mentre se invece volete anche proprio interagire con noi, basta cercare sempre su Telegram Dirette Runtime e lì sarete catapultati nella chat, dove indipendentemente dal fatto che ci siano delle live o no, sicuramente quando ci sono delle live c'è più attività, è una chat comunque sempre aperta con la quale potete interagire con noi autori e speaker di Runtime Radio, ma soprattutto anche con gli altri ascoltatori e amici di questa famiglia che oramai negli anni si è sicuramente consolidata. E per altre cose da dire, diciamo che ieri sera siamo reduci appunto da questa live di Euroludica 2024, dove abbiamo assistito alla sconfitta di misura dell'Italia sulla Spagna, che per quanto la Spagna abbia insomma prodotto tanto gioco e sicuramente una costante presenza offensiva, diciamo che poi il gol siamo fatti da soli, quindi tutto sommato, nonostante l'impegno degli spagnoli, se la partita fosse finita 0-0 non ci sarebbe stato niente di scandaloso da questo punto di vista. Mentre è uscito Snap Architettura Imperfetta, che come insomma tutti i venerdì è uscito già in chat, questa è stata una settimana abbastanza prolifica, continuano le pubblicazioni serrate, addirittura tre episodi insomma in tre settimane di Friendship Drive, il nuovo programma di Marco Gualdi insieme ai suoi amici con i quali gioca ad Elite Dangerous, e dove parlano ovviamente di questo videogioco e di questo universo sofisticato e molto importante in un ambito contesto di simulazione spaziale, diciamo così, e poi parlano anche magari di altre situazioni, altri contesti, altri videogiochi. Mentre noi invece oggi parleremo di trip cerebrali, cioè nel senso di tutte quelle cose che mi hanno sempre affascinato e quando a volte mi sono soffermato a cercare di immaginare o di pensare certe cose, il mio cervello andava in overflow, proprio cominciava a girare in continuazione fino a arrivare a un'età in cui mi rendevo conto che a livello di percezione certe cose non si possono comprendere, ma si possono comprendere soltanto con lo studio e con la scienza o con la matematica, e le cose di per sé rimangono sempre impercettibili. Però questo ci dimostra quanto ovviamente la scienza, la natura, non debba per forza essere solo a livello di percezione, della nostra capacità di interpretazione del mondo che osserviamo, ma c'è molto molto di più. Ma prima di parlare di questo, introduco ovviamente l'argomento con una canzone fatta con l'intelligenza artificiale 5 minuti fa, quindi tant'è che io non l'ho neanche ascoltata, non ho fatto testo, non ho fatto niente, tutto questo ho solo dato delle indicazioni, quindi vediamo, l'ascolto per la prima volta con voi, vediamo se quanto possa fare schifo. Vi faccio ascoltare Big Bang. Devo dire che mi aspettavo qualcosa di più sontuoso, perché comunque l'indicazione era quella di mettere un brano epic metal. Sì, diciamo ci sta, però insomma, allora, quando si utilizza l'intelligenza artificiale e gli si fa fare tutto a lei, ovviamente il risultato è sempre pessimo. Se invece, come alcuni brani che stiamo lavorando, io insomma insieme al mio amico Christian, Marco, e ci si perde tempo, a volte anche giorni, insomma, sopra su un singolo pezzo, ovviamente le cose cominciano a cambiare. E tra l'altro Andrew, lo ringrazio, che ha trovato piacevole il brano Cenere, adesso non mi ricordo neanche come si intitola, che era ovviamente il brano che ho fatto, insomma, ci ho lavorato un pochino sulla Palestina, c'era cioè rimasta quella rima alla fine che non è assolutamente italiano, però non riuscivo a sistemarla, e quindi ho capitolato lasciandola in quel modo lì. Però insomma, diciamo che questo lavoro che a volte si fa con queste intelligenze artificiali, soprattutto, come detto sempre la volta scorsa, considerando che Eleven Labs, che sta inserendo anche lei in questo contesto dei brani musicali, delle canzoni, e che ti permette di clonare la tua voce, quindi secondo me poi lì diventa ancora più interessante, perché qualcuno che conosco ha costruito, sta costruendo dei concept album tramite questi strumenti, ovviamente cose che vanno sempre prese con le molle, ma che comunque di base sono sempre sperimentazioni interessanti, e ovviamente si trovano di fronte a questa difficoltà, cioè quella di avere brani musicali con voci che tendenzialmente sono sempre diverse, no? E quindi non gli dà poi quella personalità, ecco, diciamo così, che altrimenti sarebbe bello dargli, no? E questa opportunità di inserire il clone voice con ovviamente la parte strutturale della musica e del cantato, diciamo che sicuramente diventa assolutamente interessante, che permette insomma anche a persone che magari, come abbiamo detto, non è quello il loro mestiere, non lo sanno fare, però hanno magari qualcosa da esprimere, gli permette di esprimere qualche cosa. Poi magari tra qualche tempo si arriverà a un livello di sofisticazione tale dove ovviamente anche chi produce e realizza prodotti di qualità tramite ovviamente la generativa dell'intelligenza artificiale, potendo ovviamente manipolare in maniera sensata e avanzata, diciamo, quello che è il prodotto, possano uscire fuori prodotti anche artisticamente validi che in qualche maniera possano essere inseriti all'interno di un contesto che è quello di un nuovo mercato, no? Cioè, noi comunque immaginiamo la musica oggi che è in maniera completamente radicalmente diversa da com'era 20 anni fa, e ovviamente questa accelerazione che moltiplica il livello evolutivo, diciamo, nel bene e nel male, di ogni anno sempre di più, insomma, verso altri modelli, altre forme, e ogni volta che si inserisce una tecnologia c'è una rivoluzione, noi possiamo tranquillamente immaginare un futuro dove è normale scrivere le canzoni con l'intelligenza artificiale, nessuno si porrà il problema di questa cosa qui. Però oggi, insomma, ci troviamo tra il lusco e il brusco, cioè tra il concepire, prevedere che magari un giorno questi strumenti utilizzati in una determinata maniera potranno essere lo standard, e l'essere allo stesso tempo anche vincolati ad un passato generazionale che ci porta ad un modello che è completamente diverso, ed essendo, come abbiamo detto milioni di volte, le persone comunque avendo un rapporto, insomma, con il tempo, con la propria percezione della temporalità, è ovvio che guardiamo indietro e diciamo una volta era meglio, ma questo lo facevano i nostri nonni con noi, lo facevano i nostri genitori con noi. In realtà poi quando si cresce ci renderemo conto, e ci rendiamo già conto, che è una cosa che facciamo anche noi con i nostri figli. E quindi evidentemente è proprio un qualcosa di antropologico, cioè non c'è niente di sbagliato in questa cosa. L'importante è comprenderlo e capire che, per quanto sicuramente i Led Zeppelin siano meglio della musica trap secondo noi, dobbiamo essere allo stesso tempo in grado di comprendere che oggi comunque la situazione è quella, quello è il valore artistico e quello è il valore espressivo. Poi spesso non è soltanto un fattore tecnico, ma è anche un fattore di comunicazione. Che cosa ha da raccontare questa generazione della Lamborghini? E vabbè, si vede che in questo momento il modello di questa generazione è quello, infatti vincono le ultradestre. Poi magari ci sarà un momento in cui ci si renderà conto, dopo aver preso i calci in culo a destra e a manca, che forse riscrivere cose in difesa dei diritti che abbiamo faticosamente conquistato potrà essere un nuovo valore aggiunto. Ecco, diciamo che questi strumenti mettono a disposizione di una generazione nuova di poter raccontare storie e poter esprimere considerazioni, emozioni e situazioni così, nel senso, in maniera più indipendente anche da un obbligo che è quello ovviamente della cognizione, della capacità della scrittura musicale, e oltretutto anche molto più gratuitamente, cioè nel senso con un accesso di base anche più economico, che non sia quello ovviamente di cercare musicisti, registrare, aiutarsi, farsi aiutare nell'arrangiamento e tutto quanto, insomma. Quindi io non sono negativo rispetto a questa cosa qui. Immagino che ci saranno degli assestamenti tra qua a 3, 4, 5 anni, quando poi questo diventerà uno standard per la generazione successiva. Ovviamente il problema non ce lo porremo più, insomma. È giusto o sbagliato? Non lo so, però è l'evoluzione, è così che vanno avanti le cose. Vabbè, poi chiaramente quando metti la musica quella vera la differenza ancora la senti. Poi ci saranno magari ragazzi che non saranno addestrati a sentire questo e quindi ovviamente magari non distingueranno e ci può stare, eh. Dobbiamo mettere in conto anche questa cosa qui. Comunque, veniamo un po' all'argomento che fino adesso non abbiamo ancora trattato, no? Che è una cosa che parte da quando ero ragazzino, no? Perché praticamente, beh, voi sapete che ho già raccontato che ho sempre avuto una passione per lo spazio, no? Quando ero ragazzino leggevo molto e poi avevamo questa enciclopedia meravigliosa a casa, sullo spazio, sulla corsa alla Luna e via dicendo, che era, oltre all'enciclopedia, era accompagnata anche da dei vinili, dei dischi con la voce dei più importanti giornalisti, divulgatori scientifici degli anni 70, compreso Enzo Tortola e vabbè, quello di Quark che adesso in questo momento non mi viene, lo so, ogni tanto insomma insomma può capitare e diciamo che quello che noi sapevamo era molto focalizzato magari a determinate informazioni, no? Comunque negli anni 70, quando ero ragazzino io, era ancora viva la ricerca, insomma, dell'arrivare sulla Luna, la corsa alla Luna, i satelliti che abbiamo lanciato, Voyager 1, Voyager 2, i suoni dallo spazio, c'era quella cosa, non so se ve lo ricordate, quella cosa che quando le Voyager sono passate vicino a Nettuno, che praticamente il campo magnetico del pianeta faceva praticamente risuonare gli strumenti della sonda, e praticamente questi suoni che venivano ritrasmessi nel nostro pianeta davano la sensazione come se ci fosse proprio un suono che venisse dal pianeta, no? Tant'è che poi sono scritti tantissimi articoli e racconti, no? Di quest'uomo che suona l'organo da solo nel pianeta, insomma, in un pianeta gigantesco, e poi tra l'altro non pianeta proprio, vabbè, comunque al di là di tutto questo, facendo alcuni ragionamenti e andando indietro alle alcune sensazioni che provavo, mi rendevo conto, e questa è una cosa che mi fa molto effetto, quanto praticamente ci fosse, di quanto c'è sempre stato un connubio tra idea / ideologia e scienza, no? Per quanto la scienza a un certo punto abbia preso una propria strada dal punto di vista dell'indipendenza anche concettuale, e quindi una libertà nel potersi esprimere dal punto di vista proprio meramente empirico e scientifico, insomma, noi sappiamo quanto le ideologie politiche abbiano influenzato, diciamo, gli studi universitari, no? A un certo punto di vista, ma ancora di più in senso più generazionale, anzi secolare, diciamo, quanto la Chiesa abbia influenzato ovviamente il rapporto con lo studio della natura, no? E delle cose che ci circondano. E questo perché lo dico? Lo dico perché da appassionato dello spazio, da ragazzino, c'avevo un po' di confusione in testa, no? E si pensava, un po' perché lo si pensava, un po' perché lo si rapportava a Dio, che l'universo fosse eterno, cioè che fosse sempre esistito e che sempre esisterà. Ed era una cosa che io mettevo lì a pensare, come può essere una cosa che è sempre esistita? Cioè, perché ovviamente questo è proprio un limite anche di noi umani, no? Il nostro pensiero astratto riesce a viaggiare verso qualsiasi direzione, però ci sono alcune cose che ovviamente sono limitate dalla nostra percezione antropologica, che oltre i quali noi non possiamo andare, cioè il fatto che comunque c'è un inizio e una fine per le cose, per quanto noi possiamo scrivere infinitamente grande, eternamente sempre esistito, in realtà il nostro cervello non ci arriva a elaborare questo concetto, no? Poi però ovviamente ti rendi conto che un po' per il modo in cui evolve la scienza, un po' per il modo in cui, diciamo, c'è un nuovo modo anche di divulgare la scienza stessa, ci si rende conto che le cose sono un po' diverse da come la scuola te la insegnava, in quel mix, quel Pol Pot è un dittatore, in cui Mel Pot ovviamente ti dico un po' la scienza, però ricordandosi sempre di Dio, che insomma è un po' Dio che sa là e non vuole che noi diciamo certe cose perché non possono essere in contraddizione con la sua esistenza. Intanto il cane abbaia, così a sbavo. ma questa è una cosa che purtroppo succede ultimamente sempre più spesso. E allora che succede? Succede che io concepivo questo universo come un qualcosa che c'è sempre stato e sempre ci sarà, e poi mi sono reso conto, ovviamente studiando, che in realtà non è così. Ma non solo non è così, è che non lo sappiamo neanche bene. Cioè noi abbiamo questa estrema e patologica, in senso positivo, necessità di spiegare e raccontare qualsiasi cosa, di dare un motivo a tutto quello che ci circonda. E nel dare un motivo a tutto quello che ci circonda, osserviamo, analizziamo, costruiamo delle tecnologie che vanno a guardare sempre più indietro nel tempo, sempre più lontano nello spazio, che è la stessa cosa poi fondamentalmente, fino ad arrivare a vedere quelle che sono potenzialmente le origini dell'universo, e da lì ovviamente a costruire modelli matematici, teorici, matematico-fisici, ovviamente, che diano una risposta a quello che vediamo e diano un senso a quello che vediamo. Anche se poi ci rendiamo conto che maggiore la tecnologia che noi sviluppiamo e lanciamo come scansione dell'universo che ci circonda, e più a volte queste nostre convinzioni entrano in contraddizione con altre cose che scopriamo, no? E questa è una cosa meravigliosa. In particolare questi 10 anni dal punto di vista astrofisico e astronomico sono degli anni incredibili, perché forse sono i più rivoluzionari nella storia dell'umanità. Sono quelle dove abbiamo fatto l'evoluzione concettuale e scientifica più avanzata e più veloce rispetto a tutto il resto dei nostri tempi, ed è una cosa assolutamente affascinante, perché noi comunque diamo per scontato un modello dicendo non è così. Noi sappiamo che per quelli che sono ovviamente le nostre teorie e le nostre controprove dal punto di vista scientifico e matematico, definiamo questo come vita dell'universo, ossia il Big Bang, l'espansione, il periodo iperdenso e caldo, i buchi neri primordiali, la creazione delle prime stelle, la creazione delle prime galassie, e da lì in poi ovviamente tutto il resto, no? Che è assolutamente affascinante. Se avete questa passione e vi trovate poi ovviamente a studiare queste cose, a studiare tra virgolette nei limiti di quello che ovviamente è la divulgazione scientifica per noi dummies, chiaramente vi rendete conto di quanto è veramente affascinante una cosa del genere, no? E poi ovviamente poi arriva ovviamente il James Webb Telescope, che in qualche maniera dai tempi di Hubble ha iniziato con una certa moderazione, perché molte cose le stanno facendo uscire gradualmente, ovviamente al termine di studi completati, diciamo, da un certo punto di vista, quindi assieme a dei paper scientifici, degli articoli che comunque spiegano quello che abbiamo, che stiamo osservando, e come questa cosa è compatibile con il nostro modello, con quello che noi abbiamo concepito, quanto in realtà invece al contrario sia totalmente distante da, oppure addirittura in contraddizione. Cioè com'è possibile, no? Noi abbiamo scoperto galassie di 200 milioni di anni successive alla creazione dell'universo, alla nascita dell'universo, e questa cosa è completamente fuori scala rispetto a quello che è il nostro modello di nascita e crescita dell'universo. E questa è la cosa che a me affascina ancora più di tutto, no? Però poi anche nel momento in cui, e qui entra poi la fisica teorica estrema, no? quella che devi essere secondo me un po' fuori di testa per fare quel tipo di lavoro, perché non c'entra niente con l'empirizzazione, ma si tratta proprio di andare oltre con il pensiero per dare poi lo strumento agli altri scienziati di poter lavorare su quell'idea e vedere quanto sia fattibile o sia compatibile con un certo tipo di modello o sia matematicamente sensata. Però quando tu arrivi a un certo punto a dire oh ragazzi, 13.7 miliardi di anni fa è esploso l'universo, cioè è nato l'universo, e tu dici ma come fai a evidentemente poi ci sono ci sono in realtà, sono anche spiegate queste cose, no? Poi poi dopo tu trovi cose che magari hanno il doppio degli anni dell'universo e dici, beh, c'è qualcosa che non funziona, no? Qualcosa che probabilmente deve essere un po' rivisto. Però al di là appunto di quello che stavo dicendo, invece, che quello che va poi nelle mani dei mega fisici teorici è quello di dire, ok, noi abbiamo visto e analizzato quelle che sono le origini dell'universo, al di là del fatto che stiamo lavorando su visioni alternative anche grazie alle prove che stiamo raccogliendo, ma qualcuno si è posto pure il limite della cosa che facevo io da ragazzino, cioè stavo lì proprio e dicevo, ma che cazzo c'era prima della nascita dell'universo? Vabbè, questa canzone non finisce mai. Comunque, e quindi, cioè, allora, non solo ci si pone il problema di cosa c'era prima dell'universo e cosa ci sarà dopo l'universo, ma soprattutto quanto è grande l'universo e che cosa c'è fuori dall'universo. Perché noi concepiamo, insomma, sia dal punto di vista scientifico che forse anche come logica interpretativa del nostro pensiero astratto, come l'universo come se fosse una bolla, perché escluso il pensiero scientifico cattolico che ci avevamo quando eravamo ragazzini, dove l'universo è eterno, sempre esistito e sempre esisterà ed è infinito, e quindi infinito ovviamente vuol dire che non finirà mai, non finisce mai, cioè non c'ha un confine. E in realtà poi la scienza si pone anche questo tipo di problemi, no? Dicendo sì, l'universo ha una data di origine, che è quella appunto di 13,7 miliardi di anni fa, e molto probabilmente avrà anche una data di scadenza, diciamo così, e con i due modelli principali con i quali ovviamente si immagina scientificamente quella che è la fine dell'universo. Una che è quella ovviamente di una costante e continua espansione fino al raffreddamento totale e lo spegnimento di ogni cosa, cioè tutte le stelle, le galassie, tutte le forme di energia dell'universo si andranno a spengere, fino a che l'universo arriverà a un livello di zero assoluto e di immobilità assoluta, tutto si fermerà, sarà spento, tutto completamente spento. E possiamo immaginare questa cosa come una sorta di esplosione che alla fine finisce, no? Cioè, quindi tutta la parte calda, energetica dell'esplosione, di espansione dell'esplosione stessa, anche se c'è una contraddizione su questo, perché il Big Bang non è stato una vera e propria esplosione così come la immaginiamo, cioè un'esplosione da un punto verso ogni cosa, ma è stata un'esplosione che è accaduta in ogni punto dell'universo nello stesso istante. È complicatissimo questo concetto da esprimere, ma ha matematicamente, scientificamente senso. La seconda ipotesi della fine dell'universo è quella del riassorbimento, cioè così come l'universo è ancora attualmente in costante stato di espansione, sarà un momento in cui ovviamente questa espansione verrà richiamata da una forza gravitazionale fino ad arrivare all'origine di ogni cosa, che e quindi si immagina praticamente questo ciclo continuo e perpetuo di nascita e morte dell'universo stesso, ed è una cosa assolutamente incredibile. Prima di dire un po' una cosa che voglio dire successivamente, mi viene in mente anche una cosa incredibile che Amedeo Baldi, astrofisico romano, divulgatore col canale YouTube, ha raccontato una volta e che mi ha veramente affascinato. Noi sapete, no, in generale noi ce l'abbiamo sempre questa cosa, sì, anche Adrian Fartade l'ha detta questa cosa, che è veramente figa, cioè nel senso, noi non è che vogliamo andare lì, guardare lì, scoprire lì, semplicemente perché ci serve farlo, ma semplicemente perché ci è allo stato attuale impossibile farlo, e noi non lo accettiamo questo fatto. Cioè, noi abbiamo attraversato i continenti, abbiamo attraversato gli oceani per il semplice fatto che dove volevamo farlo, e che non concepivamo il fatto che ci fosse impedito, che fosse una cosa insormontabile per noi, no? È come i gatti. Cioè tu il gatto non è che vuole entrare nella stanza dove hai chiuso la porta, è che essendo chiusa la porta lui non può entrare dentro quella stanza quando vuole lui, e quindi questa cosa lo manda ai matti, cioè, nel senso, e noi più o meno siamo la stessa cosa. Però noi come specie ci siamo sempre interrogati, no? Cioè, sin da quando ovviamente esiste un pensiero astratto, una capacità di percezione, di elaborazione del mondo che ci circonda, guardando le stelle, che so i pianeti, ci sono altri dopo di noi, al di là del discorso delle divinità e del Dio, esiste qualcun altro. Ecco, voi immaginate che in questa fase di espansione dell'universo che attualmente è in corso, ci sarà un'epoca in cui una galassia come la nostra sarà talmente distante da tutte le altre galassie dell'universo che non ne avrà conto, non ne avrà capacità. È una civiltà che nascerà in quella galassia, in quel momento dell'universo, penserà che l'universo è la sua galassia, perché non ha la possibilità e gli strumenti per osservare oltre quello, perché ovviamente la distanza della luce di ogni altra galassia, di ogni altra fonte di energia, sarà talmente lontana in questa espansione costante che quell'uomo, quella civiltà, penserà di essere l'unica civiltà all'interno di un universo che non è così vasto e sconfinato, ma probabilmente è limitato alla propria galassia, come se la propria galassia fosse l'unica realtà, l'unica entità, diciamo, dell'universo. E questo è un po' quello che facevamo noi in anticamente, quando pensavamo che il Sole fosse il centro dell'universo, perché noi quello vedevamo, no? Quello eravamo in grado di vedere. E questa cosa, per quanto sia evoluta quella civiltà, non arriverà mai a concepire il fatto che ci sono state altre galassie, altre nebulose, e ci sia stata una nascita dell'universo, perché anche la radiazione cosmica di fondo, anche la sua capacità di osservazione verso lo spazio profondo sarà al di fuori della sua portata. E questa è una cosa che mi manda proprio fuori di testa, così come quando tu mi domandi che cosa c'è fuori dall'universo, cioè se l'universo è lo spazio che si espande, continua ad espandersi, immaginate lo spazio, quindi il vuoto, che però lo dovete immaginare come un tessuto che continua ad espandersi, al di fuori dello spazio che c'è? Il nulla. Che cos'è il nulla? Cioè, voi ve lo siete mai fatta sta domanda? Non vi intrippa un po' il cervello sta cosa? A me in una maniera incredibile, e ogni volta, così come, e qui veniamo poi all'argomento e gli argomenti, uno degli oggetti più affascinanti, studiati e amati anche da tantissimi ragazzi, magari super appassionati, l'oggetto più misterioso dell'universo, che sono i buchi neri. Anche se ultimamente stanno uscendo nuovi studi, comunque la tesi più accreditata è quella che il buco nero, che nasce dal collasso gravitazionale delle stelle, in realtà altro non è che una singolarità, ossia praticamente un collasso gravitazionale talmente intenso, talmente potente, che la massa di centinaia, di migliaia, di milioni, se non di miliardi di soli, concentrati in un punto unico fisso nell'universo, talmente denso, talmente gravitazionalmente potente, che non è osservabile, non solo perché è nero e niente può uscire da un buco nero, quindi compresa la luce, ma proprio perché in realtà quando noi abbiamo fotografato per la prima volta un buco nero, perché c'era magari il disco d'accrescimento che era visibile perché era illuminato da tutta l'energia che il buco nero stava risucchiando, noi vediamo il disco d'accrescimento e vediamo l'orizzonte degli eventi del buco nero, ossia vediamo questa sfera nera, ma la sfera nera non è il buco nero, quello che è dentro al buco nero noi non lo vedremo mai, è una cosa che non è completamente al di fuori della nostra possibilità, proprio perché non possiamo sondare cosa c'è dentro un buco nero, proprio perché c'è questo orizzonte degli eventi, c'è questo limite gravitazionale oltre il quale noi non possiamo andare, perché se ci andiamo non possiamo più tornare indietro. E questa distorsione gravitazionale e spazio-temporale è talmente intensa che tutto si distorce e tutto viene completamente assorbito nella singolarità, ossia un punto. Matematicamente questa cosa ha senso, ma voi riuscite a concepirla, la materia concentrata in un solo punto? È una cosa che non è fuori scala. E quando pensiamo alle origini dell'universo, in realtà questa cosa ci riporta anche a quello, perché l'origine dell'universo in qualche maniera è una sorta di buco nero, perché prima del Big Bang anche lì c'era una singolarità, c'era un oggetto che è stato calcolato essere grosso come una palla, una piccola palla che tu tieni in mano, che conteneva tutta l'energia e la materia dell'intero universo possibile, tutto concentrato in una singolarità che a un certo punto, per reazioni quantistiche, per fluttuazioni, per quello che è, a un certo punto si è espansa in tutto l'universo con un'accelerazione per pochissime frazioni di secondo a una velocità superiore a quella della luce, e ovviamente perché viene considerata un'esplosione, perché la parte iniziale primordiale dell'universo era così calda e densa che noi avremmo visto solo un brodo luminescente caldo fuori scala, un caldo talmente intenso che già da lì sono nati i primi buchi neri primordiali, quei buchi neri che proprio dall'energia, dal tanto caldo, il tessuto stesso dello spazio si è contratto in microscopici buchi neri che vengono chiamati buchi neri primordiali e che potrebbero esistere ancora oggi e potranno esistere fino alla fine dei tempi probabilmente, anche se si considera che comunque i buchi neri con l'avanzamento della loro vita vadano evaporando, diciamo così. Ecco, quindi voi immaginate, cioè è già difficile riuscire a capire che ci sia stato un inizio dell'universo, che l'universo era concentrato in una singolarità e che al di fuori di questa singolarità che cazzo c'è? Che cosa c'è? E poi c'è qualcuno che dice no, ci sono altri universi, altre... Sì, ma cioè esiste uno spazio interstiziale tra un universo e l'altro? Che cosa c'è al di fuori? Perché noi già facciamo fatica a concepire lo spazio vuoto, no? C'è una cosa incredibile. E immaginate uno spazio al di fuori dello spazio. Oppure c'è un nulla talmente nulla che per noi è al di fuori di qualsiasi tipo di concetto, di possibilità di essere capito e interpretato. Beh, questa cosa a me... mi manda veramente fuori dai matti. Scusate se ho fatto sta disquisizione un po' così, che magari non frega un cazzo a nessuno, però a me sono cose che mi interessano e mi mandano assolutamente veramente fuori dai gangheri. E più studio, più leggo, più mi appassiono, più mi rendo conto che è difficile anche per me esprimere quello che voglio dire. Cioè, nel senso, come fai a... che cos'è per noi il niente? Cioè il niente, il nulla, il nulla, proprio. Cos'è? Cioè, esiste una parola veramente in grado di specificarlo, di dirlo? Non lo so, ci sentiamo per i saluti. E vabbè, quindi arriviamo alla fine di questo episodio, ragazzi, dicendovi grazie di essere stati qui con noi, qui con me. Non avete partecipato in chat, quindi probabilmente non c'eravate neanche. Se ascolterete questa puntata, comunque fatemi sapere cosa ne pensate, se quali sono i pensieri che facevate da ragazzini, se anche voi eravate curiosi di questo, ma soprattutto se cercavate di sforzarvi col cervello a cercare di concepire cose che ovviamente per oggi, cioè che per noi oggi sono un po' più chiare, ma che magari quando eravamo ragazzini ci sfuggivano proprio come tipo di concetto. Mentre per la prossima settimana, ragazzi, io vi invito a mandarmi un audio dove cercate di esortare un ragazzo di oggi a scendere, a prendere la strada dell'attivismo politico per cercare di riprendersi dei diritti e non farsi sfuggire quelli che altri prima di lui hanno conquistato, e allo stesso tempo di esortare le persone che hanno smesso di andare a votare e dategli un motivo per andare a votare. Cercate di fare questo audio e mandatemelo, avete una settimana di tempo, perché vorrei sentire appunto la vostra opinione in merito a questo, il vostro grido d'aiuto, il vostro allarme, diciamo così, e la vostra esortazione verso una generazione che si sta un po' perdendo e che rischiamo di perdere completamente, e che invece merita tutta l'attenzione e la concentrazione possibile e immaginabile, anche se loro non sanno come funzionano le cose, devono essere comunque stimolati ad andare a difendere quello che loro oggi pensano che sia uno stato di diritto, un dato di fatto, e che nei diritti delle persone, purtroppo, ce lo insegna la politica, non c'è niente di scontato, soprattutto quando, alla luce di chi dimentica, nascono le nuove generazioni di persone che non vedono l'ora, ovviamente, di riprendersi tutto quello che l'uomo e la donna, ovviamente, nelle sue lotte civili, ovviamente, hanno conquistato. E questa è l'era del liberismo, che cerca ovviamente di strappare tutto quello che le persone hanno conquistato grazie alla più grande e clamorosa opera di marketing della storia della politica, ossia convincendo che siamo in un periodo di profonda crisi e che tutto sommato non è colpa del sistema, ma è colpa nostra. Aspetto i vostri audio, ciao e buon inizio di fine settimana, statevi bene e taglie così, viva il rigurgito antifascista. Thank you for your appreciation. We'd like to thank you for coming along and joining in the spirit of the fun. You may all consider yourself recording artists of the night. Mm-hmm.